Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 6 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, capitolo 6 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò due versetti. Precisamente il versetto 22 e il versetto 23, ricordandovi per l'ennesima volta, colgo l'occasione, ricordandovi per l'ennesima volta che quando furono scritte le epistole, ma naturalmente anche quando furono scritti gli altri libri della Bibbia, non c'era la suddivisione in capitoli e versetti, perché è venuta molto tempo dopo questa suddivisione in capitoli e versetti, dopo molto tempo che fu, diciamo, stilato il canone biblico. Quindi capitolo 6 dei Romani, versetto 22 e versetto 23, dice l'Apostolo Paolo, che era anche dottore dei gentili in fede e in verità, queste parole: ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, noi ora siamo servi di Dio, però ci fu un tempo in cui non eravamo servi di Dio. Perché? Perché ci fu un tempo nel quale noi servivamo il peccato, eravamo servi del peccato. E in quanto servi del peccato, noi prestevamo le nostre membra a servizio di che cosa? Dell'iniquità e della impurità, per commettere l'iniquità. Era più forte di noi. Dobbiamo dirlo. E dobbiamo ricordarlo questo. Ci fu un tempo nel quale appunto il peccato ci signoreggiava, era il nostro padrone praticamente. Ora il peccato, vi ricordo, è la violazione della legge. Sì, perché Dio ha dato una legge fatta di comandamenti e la violazione della legge costituisce appunto il peccato. E noi eravamo schiavi del peccato, perché la scrittura dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Dunque ecco che cosa noi diciamo eravamo un tempo, quando eravamo senza Dio, senza Cristo nel mondo. Eravamo servi di varie concupiscenze, eravamo insensati, ribelli, traviati, odiosi, odiantici gli uni gli altri, pieni di malizia, perché appunto eravamo schiavi del peccato, e in quanto schiavi del peccato eravamo figlioli di ira, l'ira di Dio era sopra di noi. Mai scordarcelo questo, fratelli e sorelle, mai scordarcelo. Un tempo l'ira di Dio era sopra di noi, capite l'ira di Dio? L'ira di colui che ha creato tutte le cose, l'ira di colui che è santo, giusto, ecco, la sua ira in quel tempo era su di noi, noi eravamo suoi nemici, perché coloro che sono schiavi del peccato sono nemici di Dio. Ed eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, considerate anche nella nostra mente, perché i pensieri malvagi sono in abominio a Dio, non solo le parole malvagie, le azioni malvagie, ma anche i pensieri malvagi sono in abominio a Dio, e noi eravamo nemici di Dio anche nella nostra mente. Dunque, ecco quello che eravamo in quel tempo. E noi, le nostre membra, noi diciamo, le mettevamo al servizio dell'impurità, dell'iniquità, per compiere l'iniquità. E quindi le nostre mani, la nostra bocca, i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre gambe, insomma, per farvi capire, le nostre membra, noi le usevamo per disubbidire a Dio, per violare i suoi comandamenti che sono santi. Perché appunto Dio è santo e i suoi comandamenti sono santi. Ecco quello che noi eravamo in quel tempo, ed essendo schiavi del peccato, noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché il salario del peccato è la morte. Cioè, chi serve il peccato ha come retribuzione da parte del peccato la morte. Dice bene Giacomo, il fratello del Signore, nella sua epistola, dice quanto segue. Sono parole queste che appunto fanno riflettere il savio di cuore, e sono parole preziose. Dice così. Leggo il contesto in cui poi dice queste parole. Allora dice: nessuno, quando è tentato, dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ecco dunque appunto che cosa diciamo produceva a quel tempo il peccato nella nostra vita, produceva la morte. Noi eravamo senza vita, fratelli nel Signore, ed eravamo appunto, per questo eravamo infelici, eravamo senza pace. Sì, è vero, diciamo, anche noi ci rallegravamo, ma era una gioia effimera che passava velocemente, non era una vera gioia, non era la gioia che adesso abbiamo, un'allegrezza ineffabile e gloriosa, non era la gioia l'allegrezza frutto dello Spirito. Non avevamo lo Spirito di Dio, quindi quale frutto dello Spirito potevamo avere in noi? Era una gioia, diciamo, carnale, una gioia, diciamo, che veniva prodotta dalle mondane concupiscenze, dalle carnali concupiscenze, ma era una gioia che, diciamo, durava veramente pochissimo. Dopo aver commesso il peccato ci sentivamo veramente morti, no? Mentre noi ci divertevamo, è vero, sorridevamo, prendevamo le cose scherzando, però poi, quando poi ci ritrovavamo da soli, eravamo tristi, più tristi che mai. Io mi ricordo ancora la tristezza che invadeva, di cui ero pieno. Oh, che tristezza, era una grande tristezza. Io, sì, è vero, io gioivo, però il mio cuore era triste. Sentivo che dentro ero triste, ma questa è la condizione di tutti coloro che appunto servono il peccato. Dunque il peccato che noi servivamo produceva la morte in noi. Ma a Dio è piaciuto affrancarci dal peccato, liberarci dal peccato, che era più forte di noi, però al Signore è piaciuto affrancarci dal peccato, e il Signore ci ha salvati, ci ha affrancati mediante l'Evangelo, mediante la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco mediante che cosa il Signore ci ha affrancati dal peccato. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco dunque questo affrancamento, questa liberazione, questa salvezza, come è sopraggiunta nella nostra vita, mediante la parola della croce, che è chiamata anche l'Evangelo della nostra salvazione, proprio perché appunto mediante l'Evangelo siamo stati salvati e siamo tuttora salvati, perché noi siamo tuttora salvati, affrancati dal peccato, e per questo ringraziamo Dio. Dunque, mediante l'Evangelo della gloria del beato Dio, siamo stati affrancati dal peccato, avendo creduto appunto in esso. Che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi noi, avendo creduto nell'Evangelo, siamo stati affrancati dal peccato. Quindi questo è il messaggio che bisogna portare a coloro che sono schiavi del peccato. Bisogna annunciare l'Evangelo. E vi ho detto in che cosa consiste l'Evangelo, cos'è l'Evangelo. Dunque non bisogna andare ad annunciare ai peccatori un altro Evangelo, come fanno molte chiese. Molte chiese che si definiscono peraltro evangeliche, che ancora devo capire come possano definirsi evangeliche e non portano l'Evangelo, non predicano l'Evangelo, molte chiese portano un altro Evangelo. Sì, sì, Gesù ti ama, uno dei più famosi, altri Vangeli, chiamiamoli così, è Gesù ti ama, oh, Dio è interessato a te, interessato alla tua famiglia, ai tuoi bisogni. Dio vuole darti una speranza, ecco, questo è l'Evangelo. Alcuni quando parlano di Evangelo intendono questo, ma questo non è l'Evangelo, Allora, quello che portavano gli apostoli al mondo, quello è l'Evangelo, e ve l'ho appunto poco fa esposto. Quello è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Ma coloro che portano un altro Evangelo, che si aspettano poi? Che le persone siano salvate? Non possono essere salvati i peccatori credendo in un Vangelo diverso da quello appunto che predicavano gli apostoli. Ecco perché è di fondamentale importanza sapere cos'è l'Evangelo. Perché se no uno, quando evangelizzerà, che cosa porterà al mondo? Un altro Evangelo? Così non sia. Allora bisogna portare l'Evangelo, fratelli nel Signore. Quindi non illudetevi, se porterete un altro Evangelo, un Vangelo diverso, cioè cosa vi aspettate? Che il peccatore sia affrancato dal peccato credendo in esso? Vi illudereste. Allora siamo stati affrancati dal peccato, quindi liberati. Adesso siamo liberi, liberi dal peccato. Naturalmente non siamo liberi di peccare, ma siamo liberi dal peccato, perché il peccato non ci signoreggia più. Questo in virtù di ciò che Cristo ha fatto. Perché? Perché Cristo, morendo sulla croce per i nostri peccati, con il suo sacrificio ha annullato il peccato. Capite? Allora noi possiamo dire, come dice Paolo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Allora capite, fratelli, il morire di Cristo fu morire al peccato una volta per sempre. E quindi noi, avendo creduto in Lui, siamo morti al peccato e adesso viviamo nel Signore. Il nostro vivere è un vivere a Dio. Quindi noi dobbiamo fare conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Allora, come in quel tempo, quando eravamo senza Dio, senza Cristo, noi prestevamo le nostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per compiere l'iniquità, adesso dobbiamo prestare le nostre membra, come strumenti di giustizia a Dio, perché siamo diventati o siamo stati fatti servi della giustizia. Quindi adesso noi non siamo più servi del peccato, ma servi della giustizia. Allora le nostre membra possono mai essere messe a servizio del peccato? Noi che siamo servi della giustizia? No. Infatti la scrittura ci esorta a non peccare, a non servire il peccato. La scrittura ci esorta a servire la giustizia. Allora, quindi, servendo la giustizia, noi procacciamo la santificazione. Infatti dice Paolo, così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la vostra santificazione. Ecco in che maniera procacciamo la santificazione. Voi sapete che la scrittura dice procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno verrà al Signore. Quindi è evidente che la santificazione è importante. Se senza la santificazione nessuno verrà al Signore, la santificazione è importante, ma la santificazione la si procaccia servendo la giustizia. Servendo la giustizia con le nostre membra. Ma se noi con le nostre membra serviamo il peccato, come possiamo noi procacciare la santificazione? Impossibile. Allora a questo punto voglio dirvi questo. Mi ero sempre chiesto. Diciamo all'inizio della mia conversione, ma com'è possibile che tanti che si definiscono cristiani evangelici la santificazione la detestano e proprio non la procacciano? Allora, io sono pienamente convinto che molti di quelli che non procacciano la santificazione, e sono in tanti, non siano mai stati affrancati dal peccato e quindi che non abbiano mai creduto nell'Evangelo. Cioè non si sono mai ravveduti e non hanno mai creduto nell'Evangelo. Ed è per questo che appunto vivono al servizio del peccato, perché appunto non sono mai stati affrancati dal peccato. Ora, da uno che è ancora schiavo del peccato, che ti aspetti? Che procacci la santificazione? No. Quindi, ancora signoreggiato dal peccato, non avendo creduto nell'Evangelo, e quindi, essendo che signoreggiato dal peccato, quella persona non può fare a meno di servire il peccato. Non può fare a meno, ne è schiavo. E quindi, anche se si definisce cristiano evangelico, è uno schiavo del peccato. Ecco perché non si vede il frutto della santificazione in quella persona. Tu dici, ma come? Afferma di essere un cristiano, eppure, guarda, vive servendo il peccato, esattamente come tutti i peccatori. Quindi è un peccatore. Com'è possibile questo? Com'è possibile che un bugiardo, un ladro, un oltraggiatore, un avaro, com'è possibile che sia un omicida? Com'è possibile che sia un idolatra? Ma com'è possibile che sia uno stregone? O uno spiritista? o un ingiusto, o un ubriacone, o un fornicatore. Cioè, com'è possibile? Questo vive proprio come se il Signore non esistesse, vive proprio servendo il peccato. E allora la risposta è questa: molti non hanno mai creduto nell'Evangelo. Ecco perché non procacciano la santificazione, perché non sono mai stati affrancati dal peccato. Però, d'altro canto, ci sono anche quelli che un giorno hanno creduto nell'Evangelo, sono stati affrancati dal peccato, ma poi a un certo punto hanno ricominciato a servire il peccato. Sono tornati a servire l'impurità, l'iniquità con le loro membra. E allora ecco che è sparito. È sparito che cosa? Il frutto della santificazione. Per un tempo hanno portato frutto perché hanno messo le loro membra al servizio della giustizia, perché erano stati affrancati dal peccato. Poi a un certo punto, sedotti dal diavolo, hanno ricominciato a servire il peccato. E voi li vedete che servono il peccato. Ecco come si spiega appunto che molti, pur definendosi cristiani, sono dei servitori del peccato. Allora, vi faccio un esempio: i bugiardi, perché dei bugiardi ho notato che si parla poco nelle comunità. Vi siete chiesti come mai si sente parlare molto poco contro i bugiardi nelle denominazioni evangeliche? Beh, ve lo spiego in poche parole. Perché c'è una massa di bugiardi. Perché tra gli evangelici ci sono moltitudini di bugiardi, gente che ama e pratica la menzogna, proprio schiava della menzogna, è più forte di loro, non riescono a dire la verità, devono dire sempre menzogne, sempre. Capite sempre cosa significa? Li conoscete i bugiardi? Credo che, diciamo, ognuno di voi abbia conosciuto almeno un bugiardo nella sua vita, no? Tanto che da esclamare, oh, ma quello, ma come mai dice? Sempre bugie. Ma sempre bugie, dice quello. Oh, non ne può fare a meno. Ecco, allora, prendete i bugiardi. I bugiardi sono signoreggiati dal... Eh sì, servono il peccato con appunto le loro membra. Rifletteteci un momento. Sì, perché è una categoria di peccatori, quella dei bugiardi, di cui effettivamente ho notato che non si sente pressoché mai parlare. Allora, cosa dice la scrittura? Non attestare il falso contro il tuo prossimo, è un comandamento questo. Allora, i bugiardi stanno continuamente ad attestare il falso contro il prossimo, e oggi, e domani, e dopodomani, oh, li sentite attestare sempre il falso contro il prossimo, tu dici una cosa, la torcono, per metterti in bocca una cosa che tu non hai detto, è così, tu fai una cosa e loro manipolano le cose e ti attribuiscono di fare o di aver fatto una cosa che tu non hai fatto, ecco. Allora, quando vi trovate davanti queste persone, che non riescono a dire la verità, ma contorcono, manipolano sempre i fatti, le parole, allora voi siete davanti a un uomo, a una donna, che serve e signoreggia dal peccato. Serve il peccato. Poi, chiaramente, potrà essere che un giorno era stato affrancato dal peccato, aveva smesso di dire bugie e poi dopo ha ricominciato a servire, diciamo, la menzogna, altrimenti può essere uno che proprio non si è mai ravveduto, non ha mai creduto nell'Evangelo, ha fatto finta di credere nell'Evangelo e quindi bugiardo era prima e bugiardo è rimasto. Ora, la scrittura dice che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cioè, qui non è che c'è un'alternativa. Capite? La scrittura è chiara, è inequivocabile. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, perché dobbiamo ricordarle queste cose. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quindi, se le cose vecchie, cioè le menzogne, il dire menzogne, non è passato, ma è evidente che quello non è una nuova creatura, non è stato mai una nuova creatura, se è sempre stato un bugiardo, dico, se è sempre stato un bugiardo, è chiaro che quello lì non è mai diventato una nuova creatura, è sempre stato uno al servizio del peccato. Allora, i bugiardi, ma c'è una massa di bugiardi in mezzo alle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, ma veramente la menzogna è amata e praticata veramente a tutti i livelli, a cominciare dal livello superiore, chiamiamolo così, cioè a livello dei pastori. Una massa di bugiardi, parlano veramente come se Dio non esistesse, attestano il falso contro tutti, è impressionante. Poi naturalmente a seguire poi vengono naturalmente i membri di chiesa che appunto seguono l'esempio poi del loro cosiddetto pastore, bugiardi. Guardate che i bugiardi veramente fanno orrore, quando si sentono parlare i bugiardi, si prova un senso di orrore, perché riescono a inventarsi letteralmente delle cose, ma veramente che tu dici, ma solo una mente diabolica può partorire queste cose. Perché a uno, nemmeno nell'anticamera del cervello, come si suol dire, gli passano certi pensieri sul prossimo, capite? Queste persone sono capaci, e lo fanno, di inventarsi le cose più assurde, più ridicole, più fantasiose, cose inesistenti. Sapete cosa sono le cose inesistenti? Sono le cose che non esistono. Ebbene, i bugiardi si inventano cose inesistenti, cose che non esistono nella realtà, si inventano cose che non sono mai state dette, cose che non sono state mai fatte di te, fratello, sorella. Sì, perché, sapete, ci sono quelli che naturalmente non hanno capito una cosa. Il bugiardo che mente sul mio conto, inventandosi le cose più assurde, poi è lo stesso bugiardo che inventa cose contro di te che gli stai a fianco ancora, che gli dai ancora ascolto, lui alle tue spalle già sta dicendo menzogne contro di te, ma tu non lo sai, lo scoprirai in futuro, perché il bugiardo è bugiardo 24 ore su 24, per così dire, eh? Capite cosa voglio dire? È sempre bugiardo, non è che il bugiardo, per esempio, è bugiardo solo la mattina, il pomeriggio smette di essere bugiardo, la sera smette di essere bugiardo, non è un bugiardo part-time, capite? Il bugiardo è sempre bugiardo, e guardate che quando conoscete i bugiardi, ve ne rendete conto, sempre bugiardi sono, sempre, è impressionante. Allora, ci sono, diciamo in ambito evangelico, tanti proprio che amano e praticano la menzogna, cioè proprio sono dei bugiardi, sono sulla via della perdizione. Allora, questi qua sono sempre stati bugiardi, sempre schiavi della menzogna, quindi è evidente che non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo, non hanno mai cessato di essere bugiardi, lo sono sempre stati. Diciamo che sono sempre stati signoreggiati dal peccato. Ma allora voi direte, ma come mai allora si trovano nelle comunità? Ma perché hanno aderito a una denominazione, si sono intrufolati in quella denominazione, hanno cominciato a cantare quello che la denominazione faceva cantare, hanno cominciato ad agire come agivano più o meno tutti, andando al culto, gli piacevano i cantici, si sedevano, si alzavano, davano la loro offertuccia, capite, magari anche la loro decima, come gli veniva ordinato. Ma erano e sono dei peccatori dei peccatori, schiavi del peccato, il peccato del Signore Gesù. Perché altrimenti non si può spiegare come che uno non riesca ad amare la verità. Guardate, fratelli, i figlioli di Dio amano la verità, abborrono la menzogna. Allora, se uno ama e pratica la menzogna, che cos'è? Non può essere un figliolo di Dio, capite? Allora di chi sarà mai? Di chi sarà mai? Chi è colui che la Bibbia chiama bugiardo e padre della menzogna? Il diavolo. Eh già, il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Allora, evidentemente, i bugiardi sono figli del diavolo, i bugiardi non sono figli di Dio. Allora, i bugiardi, infatti, non credono nell'Evangelo. Eh no. Ah sì, certo, vi vengono a dire che loro sono credenti, ma ci mancherebbe altro. È bugiardo. Il bugiardo non è che vi viene a dire io non credo. Il bugiardo, proprio perché è bugiardo, vi verrà a dire ma io credo. Però poi dopo vedi che effettivamente non crede, perché è schiavo della menzogna. Allora non è stato affrancato dal peccato, non ha creduto nell'Evangelo. No, non ha mai creduto nell'Evangelo. Il bugiardo che è sempre stato bugiardo non ha mai creduto nell'Evangelo. Ve lo sottoscrivo. Allora, il bugiardo, praticamente, quel bugiardo che si definisce cristiano evangelico, è progenie della menzogna, è progenie del diavolo. Gesù lo disse ai giudei che mentivano contro di lui e che lo odiavano, lo volevano uccidere. Voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Gliel'ha detto. Quindi, vedete che la scrittura spiega la scrittura, fratelli. Allora, vedete, ci facciamo tante domande, no? A diverse di queste domande il Signore veramente ci dà veramente la risposta. Poi, certo, ci sono domande a cui il Signore ci darà una risposta a suo tempo, e quando saremo con Lui, per esempio. Però una cosa è certa, ci sono delle domande che hanno una risposta, per le quali riceviamo una risposta dal Signore già su questa terra. Quindi vi ho voluto parlare dei bugiardi, perché sapete, si sente spesso parlare di altri, no? di altri peccatori, però ho notato che la categoria dei bugiardi è, diciamo, un po' ignorata. Ma perché? Proprio perché il dire menzogne è una cosa tremenda nelle comunità, ma tremenda. Allora, come vi dicevo prima, io sono convinto che molti di costoro che amano, che sono bugiardi, che amano e praticano la menzogna, non siano mai nati di nuovo, mai. Non abbiano mai veramente creduto nell'Evangelo, perché non c'è un prima e un dopo, per cui si può dire, ma sai, quello prima era bugiardo, ha smesso di dire bugie. Non c'è stato né un prima, cioè c'è stato un prima ma non c'è stato un dopo, nel senso che il dopo è come il prima. Quindi che cosa significa? Significa che non ha creduto nell'Evangelo. Non ha creduto nell'Evangelo ed è appunto rimasto schiavo di questo peccato. È rimasto un amante e un praticante della menzogna. Quando un amante e un praticante della menzogna, fratelli del Signore, crede nell'Evangelo, guardate che smette di amare la menzogna, smette di praticare la menzogna, smette, capite? Perché è una nuova creatura, è stato reso partecipe della natura divina, non può amare la menzogna, un figliuolo di Dio, non può, fratelli del Signore. Quindi, il discorso è molto semplice, state attenti, perché ci sono molti, che veramente sono dei bugiardi, amanti e praticanti della menzogna, si presentano come cristiani evangelici, ma sono dei bugiardi, non sono mai nati di nuovo, mai, perché non hanno mai creduto nell'Evangelo, ossia nella buona novella. Quindi state molto attenti, ecco perché voi vedete che questi non portano frutto alla gloria di Dio, essendo dei bugiardi. Perché il bugiardo che frutto può portare alla gloria di Dio? Ma uno che ama e pratica la menzogna, ma che frutto può portare alla gloria di Dio? Non è un albero del Signore, non è un albero buono, è un albero cattivo, quindi porta frutti cattivi. Perché la scrittura dice che i santi, i servi della giustizia, i servi di Dio hanno per frutto, che cosa hanno per frutto? La loro santificazione. proprio perché sono in grado di santificarsi, sono in grado di mettere le loro membra al servizio della giustizia per la loro santificazione. E allora si vede il frutto. Prima quello era un bugiardo, amava e praticava la menzogna, adesso è una persona verace, che ama la verità, mette in pratica la verità, non attesta il falso contro il suo prossimo, odia la menzogna. Vedete la differenza? Prima portava frutto per la morte, adesso porta frutto per la sua santificazione. Che bello vedere qualcuno che prima amava la menzogna, adesso ama la verità. Che bello sentirlo parlare, che ti dà un senso di gioia, di pace, ti edifica. Perché? Perché sai che è dei nostri, perché sai appunto che è un figliuolo di Dio, perché sai che è un servo di Dio, perché sai che è un servo della giustizia, eh? E quindi ama la verità, pratica la verità, ti puoi fidare, non è uno che davanti ti dice, fratello, tu per me sei come l'apostolo Paolo, e poi dopo alle spalle dice che sei un pigro, che non vuoi lavorare, e così via, o addirittura che servi mammona. No, ti puoi fidare, quello è un figliuolo di Dio e che non si inventa cose contro di te, quello ti dice la verità come ce l'ha nel cuore, e se ti dice una cosa è quella, e quindi ti puoi fidare di questo uomo o di questa donna, perché è un fratello e una sorella in Cristo affrancati dal peccato, ma di colui che appunto è sempre stato servo del peccato, ma che si è, diciamo, camuffato da servo della giustizia, arriva un momento in cui scopri che ti dice una cosa davanti e poi alle spalle ti calunnia, ti dice ogni sorta di menzogna, alle spalle però, non davanti, perché davanti c'ha paura, trema come una foglia, solamente a vederti trema come una foglia, proprio, sì, proprio, letteralmente trema come una foglia, tu lo vedi che le gambe gli tremano, tu lo vedi che balbetta quando è davanti a te, è certamente l'empio davanti al giusto, che condotta può avere, Quindi tutto si controlla, non ti può dire quella cosa davanti, ma quando alle spalle si scatena, è così il bugiardo, è così. E ti può capitare, sai, ti può capitare di avere uno che si finge tuo amico, poi dopo scoprirai che era un tuo acerrimo nemico, ma queste cose fanno parte del corso della vita, sono quelle cose che fanno parte appunto del piano di Dio, naturalmente poi Dio nella sua sovranità ci libera da questi bugiardi, poi li allontana da noi, perché Dio è buono, Dio è fedele, però vi ho voluto parlare di questa categoria di schiavi del peccato che sono in mezzo alle chiese, che poi vanno a pontificare sul web, a fare i loro post, veramente che fanno ridere, perché voi vedete, voi leggete cose scritte da bugiardi, da gente che ama e pratica la menzogna, e chi li conosce sa che sono bugiardi, purtroppo ci sono quelli che ancora non li conoscono, che questi sono bugiardi, ma però poi, diciamo, sappiamo che a suo tempo, diciamo, come è avvenuto con noi, poi avverrà anche con loro, scopriranno che quelli sono dei bugiardi. E guardate, fratelli del Signore, perché io vi ricordo che Dio odia la lingua bugiarda, Dio odia il falso testimonio. Se io metto enfasi sulle false testimonianze, sulle bugie, è perché dovete sapere che il Dio odia i falsi testimoni. I falsi testimoni non sono figlioli di Dio, dovete capirlo questo, i bugiardi non sono figli di Dio, naturalmente si mascherano, vabbè, ma quello, sapete, è come la gente a carnevale, no? Alla cosiddetta festa del carnevale, si mascherano, c'è chi si maschera in una maniera, c'è chi si maschera in un'altra, anche i bugiardi si mascherano, c'hanno sempre una maschera i bugiardi, in mezzo alla chiesa, poi arriva il giorno che la maschera il Dio gliela fa cadere. Allora, i bugiardi sono una minaccia costante per la Chiesa. Ecco perché ve ne parlo, perché so che ce ne sono tanti. E appunto poi si camuffano i bugiardi da servi della giustizia, ma non sono mai stati quelli che appunto tra di loro non hanno mai creduto nell'Evangelo, non sono mai stati servi della giustizia, sono sempre stati così. Ah, da quando lo conosco, quello dice bugie! Poi sentite queste cose su queste persone, da gente che li conosce. Oh, da quando lo conosco, quello, ma quello sempre bugie ha detto. E infatti, anche dopo che si è unito agli evangelici, ha continuato a dire bugie. Perché? Bugiardo era prima e bugiardo è rimasto. Sapete quanti ce ne sono di bugiardi che sono membri di chiesa, anche battezzati in acqua? E quanti ce ne sono tanti, quelli che non sono mai nati da Dio e che fanno parte di comunità evangeliche. Siccome però che dei bugiardi ho visto che non se ne parla, perché appunto io so che la menzogna è molto, l'amore e la pratica della menzogna è molto diffusa in ambito evangelico, allora ve ne voglio parlare io. Ma invece appunto coloro che portano frutto alla gloria di Dio, tra le altre cose appunto, dato che servono la giustizia, dicono la verità. Avete presente l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo era un uomo che diceva la verità in Cristo. Dell'Apostolo Paolo ti potevi fidare, perché quello che ti diceva oggi te lo confermava domani, e poi dopodomani. Se ti diceva una cosa era quella. L'Apostolo Paolo non era una persona doppia, che diceva una cosa, diciamo, in faccia a una persona e poi alle spalle che ne diceva una contraria di quella persona. No, l'Apostolo Paolo era veramente un servo di Dio, era veramente un servo della giustizia. E lui è appunto un esempio. Lui è un esempio di uomo che diceva la verità. Quindi prendete come esempio appunto l'Apostolo Paolo. Allora dunque, cosa dice? Essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Quindi la santificazione è praticamente il frutto buono, perché la santificazione è un frutto buono, che porta appunto l'albero buono. E lo porta osservando i comandamenti del Signore, ossia dimorando in Cristo, perché è dimorando in Cristo che si può portare frutto, come il tralcio appunto porta frutto dimorando nella vita. Se il tralcio cessa di dimorare nella vita non può più portare frutto. Allora dice il Signore, ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Quindi vedete, ci sono tralci che appunto, quindi vuol dire che ci sono persone che un giorno hanno creduto, sono diventati tralci della vita e hanno cominciato a portare frutto, però a un certo punto smettono di portare frutto, perché cessano di dimorare in Cristo, perché la scrittura dice, Gesù dice, colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Quindi è evidente che se uno smette di dimorare in Cristo, smette di portare frutto. Allora che cosa dice la scrittura? Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Questi tralci praticamente si seccano, si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Allora vedete la fine che fanno coloro che dopo essere stati affrancati dal peccato, e appunto hanno cominciato bene, nel senso che hanno cominciato a portare frutto, quindi hanno cominciato a portare frutto perché si santificavano, vedete però che fine poi fanno quando ad un certo punto ricominciano a servire il peccato, quindi ricominciano a camminare secondo la carne, muoiono. E non portano più, diciamo, come frutto la loro santificazione. infatti voi li vedete e sono corrotti, corrotti, sono oltremodo corrotti, corrotti fino alle midolle. Hanno ricominciato a dire menzogne, hanno ricominciato a fornicare, hanno ricominciato a rubare, hanno ricominciato a bestemmiare, hanno ricominciato a oltraggiare, hanno ricominciato a praticare ogni sorta di ingiustizia, di inganno, hanno ricominciato veramente a fare quello che facevano prima che credessero. Costoro appunto sono tralci che, non portando più frutto, vengono tolti via. Dunque ecco perché la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ossia senza il frutto della santificazione nessuno vedrà il Signore. E chi sono quelli che smettono di portare frutto? Sono quelli che appunto fanno oggetto della buona coscienza, sono coloro che appunto si rimettono a servire il peccato. Uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, ebbene costoro diciamo si fanno vincere dal peccato e ricominciano a servire il peccato. E quindi voi vedete che si comportano esattamente come quelli, noi diciamo, del mondo, cioè come i peccatori, perché sono appunto ridiventati dei servi del peccato, ed essendo ridiventati dei servi del peccato, perché sono tornati a servire il peccato, sono tornati ad essere morti nei loro falli, nei loro peccati, con loro non c'è comunione. Non c'è comunione, sì, stanno ancora in mezzo alle denominazioni, ma non c'è comunione spirituale, non c'è comunione di spirito, è impossibile, perché tu cammini nella luce e loro camminano nelle tenebre, perché coloro che servono l'impurità, che con le loro membra l'impurità e l'iniquità, camminano nelle tenebre. E allora tu, se cammini nella luce, tu non puoi avere comunione con chi cammina nelle tenebre, perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Ecco perché ti sei chiesto, ma come mai io con quello non riesco ad avere comunione alcuna, alcuna? E perché? Perché tu cammini nella luce e lui cammina nelle tenebre. Semplice il discorso. È nelle tenebre. Quando uno è nelle tenebre, è nelle tenebre, come quando uno è schiavo del peccato, è schiavo. Lo schiavo differisce da colui che è libero. Fratelli del Signore, o si è schiavi o si è liberi. Noi ringraziamo il Signore che siamo stati liberati e siamo tuttora liberi, ma guardate che ci sono quelli che un giorno sono stati liberati, ma sono ridiventati schiavi, schiavi del peccato. Dice bene Paolo, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite? È così. Costoro si sono poi a un certo punto, un giorno avevano creduto, poi si sono dati al peccato per ubbidirgli. E infatti voi li vedete che servono il peccato. Vedete, è terribile smettere, diciamo, di dimorare nel Signore. Capite? Ecco perché poi questi qua, questi soggetti odorano di morte. Odorano di morte. Ma perché? Perché sono servi del peccato. Sì, sì, fratelli, un giorno erano, diciamo, stati affrancati dal peccato, ma poi hanno ricominciato a servire il peccato. E quindi voi sentite un odore di morte che viene da loro. Eh? Eh sì, e vi domandate, ma come mai? Ma come mai? Ma come mai? Perché servono il peccato. E l'odore di morte si sente, sapete. È come passare vicino, che vi posso dire, a una, si chiamano fogne, no? È come passare vicino a una fogna a cielo aperto. Lo sentite il cattivo odore? Se avete appunto il naso, no, che vi funziona, lo sentite sì. E così appunto coloro che sono da Dio, coloro che sono sulla via della salvezza, lo sentono quando hanno vicino qualcuno che odora di morte. E come? E come se lo sente? L'odore della morte. È come uno che vi posso dire io, qualcuno ha detto che quando si entra in una stalla di maiali, quando si esce fuori, poi si odora, no, di maiale. Si sente, no, l'odore. È come quando uno entra in una stanza di fumatori, il fumo gli si appiccica addosso e poi naturalmente comincia a puzzare di fumo, no? Allora, uno lo sente l'odore, cioè abbiamo il naso proprio per sentire appunto gli odori. Ringraziamo il Signore che il naso ci funziona, non ce lo dimentichiamo mai, perché ci sono quelli a cui il naso non gli funziona, a noi ci funziona e noi rendiamo grazie a Dio anche per questo. E allora l'odore di morte si sente, e come se si sente. Quindi stiamo con coloro che appunto sono un odore di vita, cioè con coloro che camminano nella luce e che appunto, dato che servono la giustizia, hanno come frutto la loro santificazione. Naturalmente, siccome che dimorare in Cristo significa appunto osservare i suoi comandamenti, è chiaro che i suoi comandamenti sono tanti, però io quello che vi voglio fare notare è che quando Paolo, vedete, in questo capitolo parla di frutto, avete per frutto la vostra santificazione, voi notate che mette enfasi sul fatto che noi non dobbiamo più prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. È molto importante questo, perché questo ci fa capire che quelli che invece prestano le loro membra come strumenti a servizio del peccato non portano frutto per la loro santificazione. Sto parlando di quelli naturalmente quei tralci che appunto non danno frutto. Non danno frutto e che poi sono destinati a essere naturalmente, dato che si seccano, a essere presi e gettati nel fuoco ad essere bruciati. Capite? Quindi è importante questo, fratelli nel Signore, perché noi lo abbiamo visto con i nostri occhi. Noi l'abbiamo visto con i nostri occhi. Ciò che appunto ciò di cui la scrittura parla. E quindi è bene che io mi rivolga questa ammonizione, affinché noi continuiamo a servire con le nostre membra la giustizia, perché noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Ecco, c'è un frutto, ma c'è anche un fine, la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Cioè, c'è un fine, abbiamo per fine la vita eterna, fratelli. Come dice Pietro, ottenendo il fine della fede. Bellissime queste parole, sono scritte in Primo Pietro. Ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Quindi, vedete, essendo servi della giustizia adesso, osservando i comandamenti del Signore, noi portiamo per frutto la nostra santificazione. E naturalmente perseverando nella fede fino alla fine, saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste. Perché il fine della fede è la salvezza delle anime. Noi abbiamo la vita eterna dimorante in noi. Ed è per questo che possiamo dire che abbiamo per fine la vita eterna. Meraviglioso. Quindi, per frutto abbiamo la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Meraviglioso. Allora parliamo sia del frutto, naturalmente, che anche del fine. Non parliamo solo del fine, ma parliamo anche del frutto. Non parliamo solo del frutto, ma parliamo anche del fine. Perché sono cose, vedete, di cui l'Apostolo Paolo ne parla assieme. Che poi, peraltro, effettivamente camminano assieme. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Cioè, noi non possiamo pensare che i bugiardi, faccio un esempio, torno ancora sui bugiardi, ma voi pensate che i bugiardi entrano nel regno dei cieli? Cioè, voi pensate che quelli che amano e praticano la menzogna quando muoiono vanno in cielo con il Signore? Ma no, questo lo credono i bugiardi, ma non coloro che appunto sono da Dio. Coloro che sono da Dio credono che i bugiardi, in quanto amanti e praticanti della menzogna, moriranno nei loro peccati e se ne andranno in perdizione. I bugiardi sì. I bugiardi, come naturalmente tutti gli altri, no? I fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, gli effeminati, gli ingiusti, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli omicidi, i rapaci, gli ubriaconi e così via, no? Gli abominevoli, tutti costoro, gli idolatri, tutti costoro andranno in perdizione, fratelli, non è che saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste. Quindi vedete quanto è importante ricordarci di avere per frutto la nostra santificazione. Quando noi ce ne ricordiamo, appunto, ci ricordiamo che le nostre membra sono membra di Cristo, e proprio perché sono membra di Cristo devono essere messe al servizio della giustizia. Quindi, fratelli del Signore, ho voluto ricordarvi quello che già sapete, ma è bene che io vi ricordi queste cose, perché queste cose sono utili ai santi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.